Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Dico una parola alla Presidenza del Consiglio, anziché fare slogan del cazzo, dico una parola di quello che sta succedendo. Che si vergognino, ci hanno a chiedere scusa ai lavoratori, scusa ci hanno a chiedere. Questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è un po', diciamo, un tono simbolo della giornata di oggi. Maurizio Landini, leader della FIOM, oggi alla manifestazione ci sono state molte tensioni, anche scontri tra manifestanti e polizia, alla manifestazione degli operai dell'AST di Terni, dell'acciaieria della ThyssenKrupp, e ci sono stati appunto dei tafferugli, quindi un clima un po' esasperato. Ne parleremo questa sera, parleremo intanto di questo scontro che prosegue sempre più aspro, addirittura potremmo dire acido, tra PD e CGIL, con anche nuovi attacchi, nuovi veleni, nuove accuse reciproche, e poi anche delle tensioni sociali. Certamente non si possono paragonare all'autunno caldo per antonomasia che ci fu a fine degli anni 60, inizi anni 70, però insomma la crisi sicuramente non aiuta. Parleremo di queste cose e di molte altre notizie, come sempre, anche di questo allarme della NATO per cacciabombardieri russi nei cieli. Non è chiaro se ci sia, insomma, strani traffici, movimenti, un po' movimentato, insomma, il cielo non dovrebbe riguardare l'Italia, però anche di questo parleremo. Per i vostri commenti, come sempre, lo sapete, con Effetto Notte c'è la libertà di accedere alla pagina e di aderire anche alla pagina di Effetto Notte su Facebook con i vostri commenti, oppure gli sms al 349-238-6666. Allora, vediamo che giornata è stata. La manifestazione dei lavoratori dell'AST, tensione a Roma durante il corteo degli operai, feriti 4 manifestanti, e il leader FIOM Landini dice: l'esecutivo si scusi, Renzi chiede ad Alfano di accertare le responsabilità. Lo scontro PD-CGIL scintille tra Camusso e Partito Democratico, accuse, veleni, polemiche. Renzi dice la Camusso è lì per i poteri forti, e poi invece Picerno del PD dice lei è stata eletta con tessere false. Incontro governo-comuni sulla legge di stabilità. Per Renzi il contributo richiesto è sopportabile, ma per Fassino non è sostenibile. Il commissario europeo Katainen avverte: non sono escluse altre procedure per quanto riguarda la legge di stabilità. La NATO lancia l'allarme, 26 caccia russi intercettati nei cieli europei. Fiat Chrysler decide lo scorporo di Ferrari, i titoli del gruppo volano in borsa. Grande successo di Muti a Vienna dall'ultima tappa della sua tournée europea, dice: non accetterò più incarichi fissi in Italia. E per il calcio una serata ricca della Serie A, la Juve all'esame al Marassi e big match Inter-Sampdoria. Partiamo quindi dalla manifestazione oggi, c'è stata a Roma, dei lavoratori dell'AST di Terni, durante la quale ci sono stati appunto dei tafferugli tra manifestanti e polizia, con alcuni feriti e molte polemiche. Sono naturalmente dispiaciuta e rammaricata. Il mio auspicio è che questo sia un episodio unico, irripetibile. Parla così, riferendo la Camera sulla vertenza dei Terni, il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, dopo gli scontri a Roma tra polizia e gli operai dell'AST. I lavoratori delle acciaierie speciali Terni, riuniti nella capitale contro la decisione di ThyssenKrupp di licenziare oltre 500 dipendenti, dopo essere stati ricevuti all'ambasciata tedesca, erano diretti verso il Ministero dello Sviluppo Economico, quando all'altezza di Piazza Indipendenza sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa. La polizia, quando gli operai hanno tentato di forzare i cordoni, ha caricato, ferendo con i manganelli, 4 manifestanti ricoverati poi all'ospedale Umberto I. Presente il leader FIOM Maurizio Landini, che dice: ci hanno attaccato senza alcun motivo. Dobbiamo prendere anche le botte, noi che paghiamo, noi che lavoriamo, dobbiamo essere anche picchiati da chi? Da altre persone che per vivere devono lavorare? In un paese di ladri, di corruzione, se la vengono a prendere con gli unici onesti? La questura di Roma ha fatto sapere che i manifestanti erano diretti alla stazione Termini per occuparle, per questo sono stati fermati con la forza. Solidarietà ai lavoratori è stata espressa dai leader sindacali Camusso, Angeletti e Furlan. L'ambasciata tedesca li ascolta, noi li picchiamo, ha twittato Vendola, leader di SEL, i cui deputati chiedono le dimissioni di Alfano. Si scaglia contro il manganellatore Renzi, il 5 Stelle Di Maio. Secondo il presidente PD Orfini, i lavoratori dell'AST vanno ascoltati, non caricati. Il ministro Guidi, dopo aver ricevuto una delegazione dei manifestanti, ha spiegato alla Camera che il governo ha chiesto alla AST di ridurre gli esuberi a 290 unità. Il ministro dell'Interno Alfano riferirà sugli scontri non appena possibile, ha fatto sapere il vicepresidente Giacchetti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come vi dicevo, poi in una lunga telefonata col ministro Angelino Alfano e un'altra con Maurizio Landini, Renzi, a quanto si apprende a seguito degli sviluppi di quello che è successo nella manifestazione dell'AST, ha chiesto di avere un'analisi dettagliata degli scontri per accertare le responsabilità, e ha chiesto anche di abbassare i toni per evitare, dice, che una crisi industriale possa provocare lacerazioni. Poi ci sono varie affermazioni di Bersani come replica a queste, a quanto è successo oggi, alle affermazioni di Renzi, ma le sentiremo dopo, quando cominciamo a approfondire gli argomenti con gli ospiti. Nel frattempo il vicepresidente in pectore dell'Unione Europea, Katainen, ha detto che il governo ha un'agenda di riforme importante, ma bisognerà vedere se saranno attuate. Tra governo e comuni nel frattempo non c'è accordo sulla legge di stabilità. Resta aperto il confronto tra governo e comuni sulla legge di stabilità. Non c'è accordo infatti sugli effetti della manovra sulle amministrazioni locali, di qui l'istituzione di un tavolo tecnico che valuterà l'impatto della legge di stabilità. Noi vogliamo mantenere questi saldi, su questo non si discute, ricorda però ai sindaci il presidente del Consiglio Renzi. Ma se avete controproposte entro questo perimetro, siamo pronti a parlarne. La legge di stabilità va incontro a famiglie ed imprese, aggiunge il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio. A fronte di questo sforzo complessivo, dell'impianto complessivo di una manovra fortemente riformista che accompagna molto i redditi delle famiglie e delle imprese, riteniamo che questa manovra richieda uno sforzo da parte dei comuni sopportabile. La legge di stabilità pesa sui comuni non per 1,2 miliardi come è stato detto finora, ma per 3,7, ribatte il presidente dell'ANCI Fassino, che chiede per questo una forte correzione alla manovra. L'insieme delle misure che la legge stabilità enuncia portano ad un impatto particolarmente pesante sui bilanci dei comuni. L'Italia sta facendo dei cambiamenti importanti, bisogna vedere se saranno attuati, dice quindi da Bruxelles il commissario europeo agli affari economici Katainen, che di fatto non esclude per il futuro nuove correzioni. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi ancora degli strascichi, diciamo così, del processo per la trattativa Stato-mafia. Ieri ne abbiamo parlato a lungo con l'avvocato di parte civile del Comune di Palermo. Bene, oggi Beppe Grillo torna all'attacco del capo dello Stato dopo la deposizione al processo di Palermo sulla trattativa ieri in Quirinale. Dice: la sua reazione è un'ammissione di consapevolezza. Tuona il leader 5 Stelle, che dal blog richiama la vicenda delle intercettazioni distrutte con l'ex ministro Nicola Mancino imputato. Nei prossimi giorni poi sarà disponibile alle parti la trascrizione integrale dell'udienza di ieri al Quirinale. Per quanto riguarda l'estero, la NATO lancia l'allarme, ci sono 26 caccia russi intercettati nei cieli europei, però di questo parleremo dopo per capire, insomma, di cosa si tratta, quali sono i dettagli di questa vicenda, una notizia di questi ultimi minuti. In Zambia invece il vicepresidente Guy Scott assumerà l'incarico di presidente ad interim dopo la morte a Londra di Michael Sata, di cui è stata ufficializzata oggi. 70 anni, laureato a Cambridge, sarà il primo leader bianco, Scott, di un paese africano da quando Frederick Leclerc lasciò il suo incarico in Sudafrica nel 1994. Scott guiderà il paese per 90 giorni fino alle elezioni, poi bisognerà vedere. Torniamo sulle notizie italiane, torniamo ancora su Expo. La Procura di Milano, in un'integrazione alla richiesta di misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sull'Andrangheta che ieri ha portato a 13 arresti, scrive: è stata documentalmente accertata una grave e pericolosa infiltrazione mafiosa nei cantieri della tangenziale est esterna di Milano in vista dell'Expo. E parliamo anche della Ferrari, che sarà scorporata da Fiat Chrysler Automobile. La separazione verrà effettuata con un'offerta pubblica di una parte della partecipazione di Fiat Chrysler in Ferrari, pari al 10%. La rimanente partecipazione sarà distribuita agli azionisti. La decisione, ha spiegato la società, rientra nel piano per la realizzazione di una struttura di capitale appropriata a sostenere lo sviluppo di lungo termine del gruppo. E poi il tema dell'immigrazione, che è diventata strutturale in Italia. Questo è il quadro che emerge dal dossier statistico Immigrazione 2014, curato dal Centro Studi e Ricerche IDOS per conto dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E Franco Pittau, che dirige il centro, risponde a chi, come Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, invoca lo stop all'afflusso di migranti. Se Salvini o un altro partito dicesse: io blocco l'immigrazione, e allora ragioniamo, blocchiamo l'immigrazione per lavoro? L'immigrazione per lavoro è stata esigua, perché sono stati concessi 27.000 permessi a cittadini non comunitari per lavoro, siamo proprio ai minimi termini. Blocchiamo l'immigrazione del ricongiungimento familiare, ce ne sono stati un po' più di 70.000, però questo è molto pericoloso, perché i ricongiungimenti familiari sono protetti dalle convenzioni internazionali. se uno nega il permesso viene condannato a livello internazionale, del resto qualche partito ha fatto delle brutte figure sotto questo aspetto, no? Allora probabilmente la cosa che si vuol dire è questa: blocchiamo il flusso dei rifugiati e dei profughi. Diciamo, noi abbiamo un precedente pericoloso. La Corte Europea dei Diritti Umani ci ha condannato, ha detto che questo non si può fare. E quindi bisogna mettersi d'accordo sulle parole. Molte volte gli slogan fanno presa, però non c'è consistenza. E adesso parliamo anche di alcune conseguenze di Ebola, a parte l'emergenza dell'epidemia. Il viaggio di una nave mercantile battente bandiera panamense, partita dalla Sierra Leone e diretta al porto della Spezia, è stato annullato, questo viaggio, dall'armatore per il rischio di dover sottostare a una quarantena che avrebbe provocato una penalizzazione economica. La nave avrebbe dovuto raggiungere Calata Paita il prossimo 8 novembre per poi ripartire con un carico di acciaio verso l'Angola, però la prefettura spezzina aveva già attivato le procedure seguendo le direttive del Ministero dell'OMS, quindi per evitare questa quarantena la nave è ripartita. E dobbiamo parlare dell'ennesimo femminicidio. Un uomo a Terni ha ucciso la moglie 36enne in cucina coltellandola mentre le loro figlie di 2 e 7 anni dormivano in camera. Poi Franco Sorgenti, questo è il suo nome, pensionato di 66 anni, si è recato direttamente al carcere di Terni confessando con poche parole quanto è successo al culmine di una lite per gelosia, ed è una dinamica dunque per i carabinieri con poche incertezze. Carabinieri che hanno sottoposto a fermo l'uomo con l'accusa di omicidio. E siamo al calcio perché è una serata ricchissima della Serie A questa, è vero Dario Ricci? Eh sì, nona giornata che si sta disputando in questi momenti. Domani sera, lo ricordiamo, c'è il posticipo Verona-Lazio, ma intanto su tutti i campi siamo intorno alla mezz'ora, finora 3 gol, tutti pesanti però, perché mentre la capolista Juventus è ancora sullo 0-0 a Genoa e pochi istanti fa ha colpito un palo, se non sbaglio, con Llorente, il Milan è sotto a Cagliari per 1-0, rete di testa di Ibarbo, e soprattutto la Roma in vantaggio all'Olimpico sul Cesena, ancora un gol proprio dopo 3-4 minuti di Mattia Destro. In vantaggio anche il Torino per 1-0 sul Parma, in questo caso il marcatore è Darmian. Parma sempre più in crisi in questa sfida che vede anche, Roberta, il ritorno in campo dell'arbitro Rocchi dopo le tante polemiche, dopo il big match Juventus-Roma di 2 settimane fa, del 5 ottobre scorso. Già, Dario Ricci, poi ci aggiorniamo allora più tardi sui risultati delle partite, intanto li lasciamo giocare e intanto leggo prima della pausa per aggiornare chi viaggia alcuni dei vostri messaggi che stanno arrivando sulla pagina Facebook di Effetto Note e al 349-238-6666. Per esempio ringrazio Clotilde per il suo messaggio, poi Marvi da Genova dice: notare che a quest'ora il Premier non ha ancora trovato la battuta giusta per liquidare la manifestazione. Giampaolo dice: Muti ha capito, il posto fisso in Italia non c'è più, perché Muti, notizia di oggi, dopo il successo a Vienna, ha detto: basta, in Italia non accetterò più posti fissi. E poi Davide: purtroppo davanti a riforme che continuano a non dare lavoro è inevitabile il nervoso nelle piazze, o paura sarà sempre peggio. Di questo anche parleremo, come dicevo, più tardi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E adesso brevemente ve le riassumo le notizie. Vedo adesso un'agenzia, una dichiarazione di Alfano, ministro dell'interno, che dice: la manifestazione dell'asta oggi è stata una brutta giornata per tutti. Tra poco approfondiamo anche questo argomento. Abbiamo sentito all'inizio la voce molto alterata di Landini, ma queste sono le notizie principali. La manifestazione appunto a Roma, cariche degli agenti al corteo Ast, 4 gli operai feriti, l'ira di Landini, dice il governo si scusi, e la polizia dice volevano il blocco di Termini. Scintille tra Camusso e PD, accuse, veleni, polemiche reciproche, Renzi è lì per i poteri forti, ha detto la Camusso, invece la Piceno del PD dice: lei è eletta con tessere false, poi si è scusata. Il commissario europeo Katainen avverte: non sono escluse altre procedure per l'Italia, fare riforme, dice, intima, e Renzi i sindaci, dice, i saldi non si toccano, faremo una local tax. La NATO, l'allarme, lancia l'allarme: almeno 26 caccia russi in volo sui cieli europei, rischi per l'aviazione civile. Ne parleremo anche di questo durante la puntata. Poi la Ferrari che sarà scorporata da Fiat Chrysler, e poi ancora, dicevamo, il grande successo di Muti a Vienna, mai più incarichi italiani, e poi il calcio, una serata piena di partite di Serie A che aggiorneremo più tardi. quindi avete sentito questo scontro, l'avete sentito anche voi in questi giorni, anzi settimane, forse mesi in realtà, di questo continuo scontro tra CGIL e PD con reciproche accuse e veleni. La più recente è quella che si è consumata tra ieri e oggi, da un'intervista della leader da CGIL Camusso a Repubblica, che ha detto Renzi al governo grazie ai poteri forti, e poi la replica dell'eurodeputata del PD Pina Picerno, che ha detto lei in realtà è stata nominata per grazie delle tessere false e pullman pagati per la manifestazione che c'è stata sabato a Roma. E poi ha precisato: in realtà mi scuso, non era mia intenzione lanciare accuse, se le mie affermazioni hanno dato questa impressione mi dispiace, rispetto al sindacato, però anche loro devono rispettare un governo che cerca di fare quello che può per il paese. Quindi il confronto e si è acuito senz'altro, ed è sembra infinito ormai, sull'articolo 18, sul Jobs Act, sulle polemiche per la legge di stabilità, i tagli del bilancio 2015. Quindi tra CGIL e PD, soprattutto tra la segretaria Camusso e il presidente Matteo Renzi, è tutto un botta e risposta tra accuse e veleni, in clima sempre più aspro, insomma. E sentiamo allora, facciamo un piccolo sunto di alcune affermazioni che hanno fatto un po' incendiare questo rapporto. Sentiamo. Io ho molto rispetto, a differenza di altri, per le piazze e per le manifestazioni. Mi lasci dire che sono rimasta molto turbata dal leggere le parole stamattina di Camusso, che dice a qualche giornale che Renzi al governo per i poteri forti. E allora io potrei ricordare, diciamo, che Camusso... non lo possiamo ricordare perché abbiamo finito. La Camusso rappresenta un potere forte, secondo lei? La Camusso, diciamo, io potrei dire, non lo farò, che la Camusso è eletta con tessere, diciamo, false, o che quella piazza è stata riempita, diciamo, con chiedo rispetto. Questa Pina Picerno, dicevo, del PD, che replica la Camusso, la sua intervista su Repubblica, nella quale la Camusso ha detto Renzi è lì perché lì l'hanno messo i poteri forti. Poi Pina Picerno ha fatto un po' un dietrofronte, però la tensione resta alta. E allora coinvolgo in questa discussione Claudio Cerasa. Buonasera Claudio. Buonasera. Caporedattore del Foglio. Claudio, diciamo che è un botta e risposta, accuse reciproche che dura da un po'. Se vogliamo sentire anche per esempio la Camusso due giorni fa, se non sbaglio, su Renzi, sul Jobs Act, sul fatto che non esiste più il posto fisso. E vorrei dire che non sa di cosa parla, perché non può da un lato sostenere che la strada è il contratto a tutele crescenti per favorire il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e poi sostenere che l'articolo 18 sarebbe il posto fisso, perché sennò non si capisce che cosa vuol dire contratto a tempo indeterminato e tutele crescenti. Poi sentiremo anche Bersani, sentiremo altre cose, anche quando Renzi ha detto trattare cosa, il governo non tratta coi sindacati. Claudio Cerasa, insomma, qui rischia veramente un'esplosione questo rapporto. Renzi, tra l'altro, rispetto ai suoi predecessori del centro-sinistra, ha proprio cambiato linguaggio anche, no, nei confronti del sindacato, nel trattarlo. Sì, ma intanto diciamo che la giornata di oggi è stata veramente triste, perché da una parte e dall'altra sia... da parte dell'onorevole Picerno sia da parte di Camusso, diciamo, sono stati aggiunti all'interno della discussione degli ingredienti non proprio di altissimo spessore. Non commento neanche l'idea che la storia delle tessere false, queste sciocchezze non dimostrate, perché se uno dice una cosa del genere poi deve anche portare delle prove, certo. A conforto della tesi. Mi incuriosisce di più invece il tic di Susanna Camusso, che da due anni a questa parte proprio non riesce non tanto a sostenere, ma a capire Renzi. È una distanza antropologica e culturale che ha avuto vari picchi in questi anni. Io ricordo quando nel 2012 ci fu il momento durante le primarie del PD contro Bersani, Camusso il giorno delle primarie disse che Renzi è sostanzialmente il male assoluto, quindi, come dire, è una cosa che parte da lontano. Oggi questa distanza è ancora più forte, si va a ramificare anche all'interno dei rapporti tra la sinistra ultrasindacalizzata e il Partito Democratico, e ha un, secondo me, un evidente finale questa storia. Esiste una scissione culturale che in questo momento è fortissima e che mette da una parte il PD, quello della Leopolda, con la piazza della CGIL. Sono due modi di pensare la politica completamente diversi e non c'è proprio spazio per il dialogo, niente da fare. Quindi dice inconciliabile, insanabile questo rapporto ormai così sfilacciato. Culturalmente sì, perché in tutto il mondo, in tutta Europa esistono due modi diversi di intendere la sinistra, con una parte più diciamo liberale e un'altra più laburista. In Italia mi sembra che la parte che più si rifà al mondo del sindacato ha scelto di stare fuori dal perimetro proprio del Partito Democratico. Questo poi non so se avrà una conseguente scissione, però è un fatto che esistono due modi diversi di parlare proprio il linguaggio della sinistra, uno parla latino, l'altro parla il nostro goto. Ma è colpa di qualcuno, di quell'altro? Poi è un bene per il paese, un progresso, un regresso, secondo te, Claudio? Ma secondo me, non so se è un bene o un male, credo che sia un processo da un certo punto di vista inevitabile, anche questa lontananza tra i due mondi. Io ricordo anche i tempi di Veltroni, che aveva un'idea di partito che era grosso modo simile a quella di Renzi, e ci fu una scelta precisa di allontanarsi in maniera radicale dalla sinistra radicale. Oggi il partito di Vendola è un mondo che si sta così spegnendo, esiste una parte importante del Partito Democratico che non si riconosce più in Renzi e che sta trasformando questa battaglia sul lavoro in una guerra di esistenza, ma anche di resistenza. È anche un po' un pretesto, perché alla fine, come dire, vorrei ricordare che quello di cui si sta parlando, anche buona parte della manifestazione di sabato scorso, è stata fatta per un dettaglio tecnico importante, per carità, però diciamo, non così fondamentale. La minoranza del PD oggi contesta Matteo Renzi di non aver inserito all'interno del disegno di legge delega sulla riforma del lavoro il testo esatto che è stato votato in direzione nel PD, mentre Renzi ha promesso che quel testo verrà riproposto nei decreti attuativi. Quindi, come dire, parliamo di alcuni dettagli importanti sicuramente, ma che non giustificano questo scontro di civiltà fortissimo e bestiale che esiste all'interno della sinistra. Bersani, ex segretario del PD, poco fa ha detto 8,5. Tu parlavi della possibile scissione che è sempre nell'aria, no? Della minoranza PD di sinistra rispetto alla maggioranza del partito, anche se per ora sembra uno spauracchio, ma difficilmente sì, penso si possa quello realizzare. No? Anche perché dove vanno? Effettivamente. Però dice Bersani, il PD è casa mia, non posso proprio pensare a una scissione, anzi mi sembra singolare che ci sia un segretario che fa un appuntamento bello come la Leopolda, ma senza un simbolo del PD e nessuno gli chiede, ma vuoi uscire dal PD? Cioè dice lui semmai a cui bisogna chiedere, vuole uscire dal PD? Ma diciamo che era curioso che sia la Leopolda sia in piazza con la CGIL, in entrambi i casi erano assenti completamente le bandiere del Partito Democratico, nell'uno e nell'altro caso. È mondo la Leopolda perché Renzi vuole che il suo profilo non sia coincidente con quello del PD. D'altra parte è singolare questo, no? Visto no, che lui è segretario del partito. Sì, ma ci può stare, perché come dire, Renzi è il PD più qualcosa in più, quello che un tempo si sarebbe chiamato plusvalore. D'altra parte invece, insomma, Bersani ha perfettamente ragione, Bersani penso che sia dentro il percorso del nuovo Partito Democratico pur avendo una posizione di opposizione. Sono altre persone, i mondi che si sentono rappresentare in toto della CGIL o anche da Landini, che pensano che il loro percorso invece sia culturalmente proprio diverso e che vedono in maniera chiara Renzi non come un'alternativa alla sinistra, alla vecchia sinistra, ma un nemico della sinistra, un uomo di destra, il figlio della tecnocrazia, addirittura una persona messa al potere dai poteri forti, che poi, come dire, Camusso un tempo avrebbe fatto delle dichiarazioni un pochettino più sensate. Questa non mi sembra che sia particolarmente, diciamo, provata dai fatti. Secondo me ho letto male una dichiarazione di Marchione. Lei si rifà a Marchione, che avrebbe detto sì, l'abbiamo messo noi lì, l'abbiamo messo sì, lì. Mi chiedo, Camusso ha detto una dichiarazione non smentita, ma Renzi cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto dire no, Marchionne si sbaglia, non, i poteri forti non mi hanno messo al governo per carità. Insomma, fa abbastanza ridere, sembra una scena da zero. Senti, abbiamo citato Bersani che dice in realtà, insomma, resta dentro il PD rispetto a una sinistra un po' più scissionista, diciamo così, però ha redarguito Renzi anche sul sindacato. Sentiamo. Il sindacato ha pienamente il diritto di chiedere anche una trattativa con il governo così come avviene per formazioni, perché per esempio sono convinto che con gli industriali farmaceutici un po' di incontri li hanno fatti, se no non mi spiegherei qualche misura che viene stata presa. Con i concessionari qualche incontro è stato fatto, se no non mi spiegherei qualche misura che è stata presa. Sentito Claudio Cerasa. Sì, non penso che siano in contraddizione però le due cose, nel senso Bersani ha ragione quando dice che singolarmente dei vari rappresentanti delle varie categorie vengono incontrate dal governo, ma mi sembra che Renzi abbia scelto un approccio diverso, che è quello di andare contro le confederazioni, cioè tutti coloro che rappresentano più parti. Renzi dice anche esplicitamente che il suo modello è quello americano, in cui il governo si va a rapportare con le singole parti, ma non le confederazioni, non Confindustria, non la CGR, non la CISL, con addirittura le stesse aziende o delle piccole rappresentanze. Quindi, come dire, le due cose non sono in contraddizione. Detto questo, come sempre cambia quando si parla di Renzi, il 50% sono delle parole che vengono dette che hanno un impatto politico anche poi sul piano delle riforme, ma poi il 30% è comunicazione e psicologia. Renzi da 2 anni a questa parte ha costruito il suo percorso ponendosi in maniera proprio antitetica rispetto al mondo del sindacato, perché sa perfettamente che nel paese i corpi intermedi, il sindacato in primis, sono considerati in maniera non particolarmente benevole, quindi sa che elettoralmente parlando andare contro il sindacato porta molto consenso. Renzi è il primo leader del Partito Democratico che ha costruito la sua campagna elettorale nel 2013 e dicendo nel comizio finale: io andrò contro la CGL. Bersani però, per chiudere, Claudio Cerasa non approva comunque anche il suo metodo, il suo modo di parlare, di approcciare, che siano i sindacati e non solo. Sentiamo. C'è un modo troppo polemico, c'è una comunicazione sopra le righe, va bene? C'è un modo troppo polemico, si accendono troppe micce. Io non sono mica, io col sindacato per esempio aprirei un confronto secco, serio sul tema decentramento contrattuale e partecipazione dei lavoratori. Aspetti, la fermo. Non sto mica dicendo che facciamo pappe cicce con i sindacati, bisogna rispettarsi adesso un po', no? Insomma, dice quindi un tono troppo polemico, un po' troppo aspro quello di Renzi. Sei d'accordo, Claudio? Assolutamente, ha ragione Bersani, è un tono aspro, ma come dire, anche Renzi tratta il sindacato esattamente come ha trattato in questi anni i vecchi dinosauri del centrodestra e del centrosinistra, che hanno perso molte occasioni per riformare il paese. E in fin dei conti il sindacato fa parte di questo mondo, perché se l'Italia ha la situazione occupazionale che ha, la situazione dei salari che ha, quindi il sindacato ha una parte della responsabilità, e chi lo guida oggi è in continuità con quanto fatto negli ultimi anni dal sindacato. Grazie Claudio Cerasa. Buona serata. Ciao Claudio. Vedo un messaggio di Tina 349-238-6666, poi vedrò gli altri nella pagina Facebook di Effetto Notte, che dice proprio di sindacati: strabilianti, i nostri sindacati prima contribuiscono allo smantellamento dello Stato sociale, poi si armano a difensori dei lavoratori. Poi potete continuare a esprimere le vostre opinioni in un senso o nell'altro. Ci prendiamo una pausa. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi qui, Roberta Giordano, sempre con voi. Stavo guardando ancora i vostri messaggi. C'è per esempio un ascoltatore che dice: il fatto che Renzi abbia superato il concetto di concertazione, speriamo che questo serva ai sindacati per farli tornare a svolgere il proprio ruolo, al contrario di quanto dica Cerasa, che era giornalista ospite prima. Ma dopo darò altro tempo ai messaggi, se tempo ce ne sarà, perché ho ancora tante cose da raccontarvi. Intanto vi riassumo brevemente, se avete acceso la radio in questo momento, quali sono state le notizie del giorno. Innanzitutto la manifestazione dei lavoratori dell'AST, con tensioni a Roma durante il corteo degli operai, sono rimasti feriti 4 manifestanti. Il leader della FIOM Landini dice: l'esecutivo si scusi. Renzi intanto chiede ad Alfano di accertare le responsabilità. Lo scontro PD-CGL che va avanti tra accuse, polemiche e veleni, ne abbiamo parlato poco fa. E poi sulla legge di stabilità c'è il commissario Katainen che dice: non è detto che insomma non ci siano prossimamente altre procedure. La NATO lancia l'allarme, 26 caccia russi intercettati nei cieli dell'Unione Europea. Fiat Chrysler decide lo scorporo della Ferrari, i titoli del gruppo volano in borsa. E poi il calcio, serata di Serie A, tra poco aggiorneremo ancora sui risultati. Adesso quindi parliamo allora di questa manifestazione che c'è stata oggi a Roma, vi dicevo scontri e tensione altissima durante questo corteo degli operai dell'Asta, cioè degli acciai speciali di Terni, anche se adesso vedevo una notizia di pochi istanti fa che aggiorna che un po' l'evoluzione di questa vicenda. Asta, cioè l'azienda, ritiene che le proposte arrivate oggi dal ministro Federica Guidi, il ministro dello sviluppo economico, possano essere di supporto per l'individuazione di un percorso alternativo all'ottenimento della prevista riduzione del costo del lavoro di circa 30 milioni di euro l'anno e contemporaneamente garantire l'integrità del sito produttivo di Terni. Quindi vediamo se le cose si mettono al meglio. Oggi insomma è stata però una giornata agitata, questa manifestazione è finita con 4 operai feriti, con Landini, leader della FIOM, che ha detto Renzi spieghi le botte, ancora poco fa una sua dichiarazione dove dice il governo ci deve delle scuse, e poi la questura che invece ha detto sono rimasti feriti degli agenti, non c'è stata nessuna carica, solo contenimento, un sindacalista che invece ha dichiarato ci hanno caricati senza preavviso. Insomma, questo mentre il governo appunto intravede una possibilità di trattativa con buon esito, come vi dicevo prima dall'ultimo. Ultima notizia che abbiamo visto. Che cosa comporta tutto questo in una realtà di infinite crisi aziendali, di tavoli al Ministero dello Sviluppo Economico che sono davvero numerosi, la manifestazione sabato della CGIL, poi l'annunciato sciopero generale della leader Camusso, che bisognerà vedere quando ci sarà. Insomma, è un autunno caldo in altra edizione. Domenico De Masi, sociologo e professore di sociologia del lavoro. Buonasera De Masi. Buonasera, buonasera a voi. Ma è un includelirsi del conflitto. I conflitti esistono sempre, o latenti o espliciti. Ogni società è fatta di conflitti. Si tratta di capire fino a che livello questi conflitti si spingono, perché oltre un certo livello naturalmente diventano pericolosi. Di solito lo Stato si pone come soggetto di arbitro nei conflitti tra privati, diciamo. In questo caso lo Stato è diventato una delle parti frontali nei confronti del sindacato, quindi sicuramente avremo un includersi dei conflitti. Quindi in base a questo cambiamento anche dei posizionamenti, dice De Masi, questo non può aiutare la mediazione ma può acuire conflitti? Ma non c'è dubbio. Guardi che ci sono alcune teorie contrastanti sul ruolo del conflitto, che so, ad esempio per le filosofie manageriali di tipo taylorista il conflitto è sempre negativo, è come una malattia che va sempre curata. Secondo i marxisti il conflitto è il presupposto della rivoluzione e quindi è un bene. Secondo i socialdemocratici tipo Dahrendorf il conflitto è necessario purché si mantenga, diciamo, in un limite che lo Stato deve garantire. Ora a questo punto si tratta di capire se si vuole andare oltre un certo limite o meno. A me pare che le parti ormai siano in scontro e la cosa nuova è che lo scontro è nell'ambito della sinistra. È la prima volta che il sindacato è così frontalmente posizionato nei confronti di un governo che dovrebbe essere della sua stessa posizione. D'altra parte il governo dice cose che a me come sociologo sembrano un po' strane. Sembra che non ci siano più differenze tra datori di lavoro e lavoratori, questo crea confusione, non è affatto vero, sono due ruoli diversi e la differenza c'è. Questo non significa che debba essere una differenza conflittuale, ma confondere i ruoli è sempre negativo. Le faccio sentire, De Masi, una dei passaggi di Maurizio Landini, leader della FIOM, oggi alla manifestazione, in cui è particolarmente incavolato, sentiamo. Dico una parola alla Presidenza del Consiglio, anziché fare slogan del cazzo, dico una parola di quello che sta succedendo. Che si vergognino, ci hanno a chiedere scusa ai lavoratori, scusa ci hanno a chiedere. Questo paese esiste perché c'è la gente che lavora, dovrebbero chiedere scusa alla gente, capisci? Altro che palle, Leopolde e cazzate varie. Basta, basta slogan, basta! Hanno rotto le scatole, questo è il problema. E dobbiamo prendere anche le botte, noi che paghiamo, noi che lavoriamo, dobbiamo essere anche picchiati da chi? Da altre persone che per vivere debbono lavorare? Ma che diano gli ordini di colpire quello che c'è da colpire? Cazzo, in un paese di ladri, di gente che evade, di corruzione, se la vengono a prendere con gli unici onesti? Ma dove cazzo siamo messi? Basta, eh! Anzi, si è fatto sentire in questi minuti? Non si è fatto sentire nulla! Come commenta queste parole di Landini, Domenico De Masi? Beh, sono parole dette durante una manifestazione, quindi è chiaro che quando c'è folla la dimensione emotiva prevale su quella razionale, quindi noi ora invece stiamo discutendo con tutta calma in una situazione completamente diversa. E di sicuro, ripeto, c'è una incrudelirsi dei conflitti. La cosa per me strana è che le posizioni si rinfacciano reciprocamente di essere più arretrate o più avanzate sulla base di dati sfuggenti. In questo momento, per esempio, è più avanzata la posizione di Piketty, che denuncia il pericolo per il capitalismo di un eccesso di divario di ricchezza tra ricchi e poveri, o è più avanzato il neoliberismo. È difficile dire, perché fino a qualche tempo fa sembrava chiara la situazione, cioè il neoliberismo portava avanti la considerazione sociale di paesi che erano eccessivamente conflittuali. In questo momento la situazione è cambiata ancora. Forse Renzi pensa di essere molto avanzato e invece in una situazione che ormai a livello mondiale è già oltre. Noi in Italia abbiamo fatto spesso di questi errori, per esempio siamo andati a conquistare le colonie quando gli altri se ne stavano andando, e quindi bisogna stare attenti a non approdare al neoliberismo quando ormai il neoliberismo altrove sta per essere superato. Grazie professor De Masi, grazie e buona continuazione. Grazie. E dalla manifestazione, dal possibile autunno caldo, da come si evolverà, staremo a vedere. Passiamo invece a un allarme lanciato dalla NATO, che è notizia di questa sera, circa caccia russi che sono stati intercettati nei cieli dell'Unione Europea. Chiedo a Gigi Donelli, particolarmente esperto di queste materie. Ciao Gigi. Buonasera Roberta. Di che tipo di allarme si tratta? È un'altra dimensione emotiva questa. Certo. Ma molto a che fare con tutto questo. Ma innanzitutto assicuriamo i nostri ascoltatori, non sta succedendo nulla. Anzi, nei mi pare cieli che l'ENAV abbia detto che almeno allora, per l'Italia non di fare il punto. La NATO, l'ufficio stampa della NATO ha diramato un comunicato nel pomeriggio che è stato immediatamente ripreso dalle agenzie di stampa e dai quotidiani belgi, visto che la NATO ha sede a Bruxelles, e che recita: nelle ultime 48 ore la NATO registra un'attività insolitamente intensa di presenza militare russa nei cieli. Questo innanzitutto non vuol dire che sono i cieli d'Europa, nel senso che stanno volando sopra di noi, non ci sono affatto aerei russi. Quando, come tutte le forze armate, appunto l'aviazione, di fatto operano ai confini dei cieli e degli altri cieli. La Russia, come sappiamo, è un paese enorme, quindi opera contemporaneamente sul fronte nord, quindi il Mar Baltico, il confine con la Norvegia, un paese della NATO dunque, opera all'interno invece del Mar Baltico, quindi tra Polonia, tra Svezia. Nei giorni scorsi abbiamo sentito parlare di un sottomarino russo che vagava nelle coste vicino a Stoccolma, e operativamente anche nel sud, quindi Mar Nero, Ucraina evidentemente. Quindi in un momento poi molto delicato. Esattamente, per questo parlavo l'Ucraina. Di dimensione emotiva. Per completare il quadro, questa sera la stampa russa, quindi Mosca, ha comunicato di avere completato con successo il test del famoso missile Bulava. Dico famoso perché chi segue un po' le questioni militari, ormai da 10 anni i russi lavorano e testano questo gigante 20 metri, gittata di circa 9.000 chilometri e capacità potenziale, naturalmente non quello dei test, di portare nella sua testa fino a 6 testate nucleari. Insomma, lo scenario del war game. Ecco, questo lancio è avvenuto. Pensate, il razzo, sostanzialmente il missile, dal sottomarino nucleare partito dal mare del nord, il suo bersaglio era in Kamchatka, 11 fusi orari più ad est. I russi, soddisfatti, l'hanno diramato a loro volta. Tenete presente non che è successo niente. Non è successo assolutamente, era un test. E tanto per dare un'idea, l'ultimo test è accaduto il 14 settembre scorso e non ne abbiamo parlato. Perché? Perché evidentemente in queste ore, intorno alla crisi ucraina, domenica scorsa c'è stato il voto, ma domenica prossima c'è il voto nelle zone orientali dell'Ucraina, insomma c'è una sensibilità molto elevata, per delle ragioni evidentemente consistenti, su tutto ciò che accade appunto lungo quella linea che una volta avremmo chiamato cortina di ferro e oggi chiamiamo di separazione tra la NATO e le forze russe. Sicuramente una situazione da monitorare, sicuramente una situazione di tensione che è legata in gran parte, possiamo dire, agli eventi di Ucraina e quindi a tutti i temi per noi classici del gas, dell'accordo e delle tensioni di un paese assolutamente lacerato. Domenica ci sono state le elezioni in Ucraina, non ne abbiamo parlato ampiamente, grande vittoria dei filo occidentali, ma nell'occidente dell'Ucraina. La parte orientale non ha votato, lo farà domenica prossima. Mosca si è preoccupata già di dire che riconoscerà il risultato dell'est Ucraina, che sarà chiaramente al 95% filo russo. Insomma, una storia lunga che continua. Grazie Giornelli, a tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccole brevissimamente le notizie, visto che il tempo corre. Naturalmente abbiamo parlato della notizia oggi principale, che è quella della manifestazione a Roma del corteo dell'Asta, con tutte le polemiche che ci sono state, e poi le scintille tra Camusso e PD. E la mia tosse che adesso mi porta subito allora a lanciare lo spazio europeo. Europa 24 notte. Sono molte le iniziative della Commissione europea a favore della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale, in particolare in ambito urbano, dove l'obiettivo rimane sempre quello di dimezzare gli incidenti stradali entro il 2020. Iniziative che vanno dalla Settimana europea per la mobilità sostenibile al programma di azione per la sicurezza stradale e gli orientamenti sulla sicurezza stradale, che forniscono un quadro generale nel cui ambito possano essere avviate azioni concrete a livello europeo, nazionale, regionale o locale. Dimezzare il numero dei sinistri, che purtroppo in Europa sono ancora la prima causa di morte per i giovani tra i 20 e i 24 anni, è l'obiettivo fissato dal decennio della sicurezza stradale 2011-2020 dell'Unione Europea, che testimonia una forte presa di coscienza sul tema da parte dei 28 Paesi membri. Target in realtà già centrato da alcune città europee, che sono andate anche ben oltre, azzerando il numero di incidenti stradali. In particolare, secondo quanto emerso dal rapporto 2014 sulla sicurezza stradale in ambito urbano curato dalla società DECRA, tra il 2009 e il 2012 centinaia di città con più di 50.000 abitanti hanno raggiunto il totale di zero vittime almeno una volta. 462 comuni, pari al 40% di tutte le città oltre 50.000 abitanti, e sono 16 quelle che non hanno registrato vittime per tutti e 4 anni considerati. E a sorpresa, tra le città virtuose d'Europa figurano anche alcune località italiane come Arezzo, Pistoia, Ancona, Reggio Calabria e Catanzaro. Risultati che dimostrano, insomma, che il traguardo in fin dei conti non rappresenta un'utopia, per quanto possa essere complesso e difficile da raggiungere. Una tendenza alla diminuzione degli incidenti dunque c'è anche nel nostro paese, come ci spiega il presidente dell'ACI, Angelo Sticchi Damiani. Gli incidenti sono in calo in termini assoluto, sono in calo anche nel rapporto strade extraurbane, aree urbane, di poco purtroppo, ma il dato in assoluto è comunque preoccupante, perché il 42% dei morti ancora avvengono in area urbana. Questo è un dato assolutamente inaccettabile, perché non può che essere la conseguenza del fatto che ci siano pedoni, ciclisti, motociclisti e anche automobilisti che nelle aree urbane perdono la vita. Abbassare il limite a 30 km orari nelle città, come chiedono per esempio molti ciclisti e come avviene appunto in altre città europee, questo potrebbe anche far diminuire gli incidenti? Sì, guardi, quella è un'iniziativa che secondo me è molto interessante. Io viaggio molto in Europa, recentemente sono stato in Francia e ho visto alcune di queste zone 30. Per carità, tutto funziona, tutto va bene, bisogna vedere come lo si fa, dove lo si fa e con che criteri, perché nelle zone 30 si va a 30, le macchine possono entrare soltanto per parcheggiare normalmente, per uscire, quindi sono soprattutto delle aree di parcheggio, però per arrivare a questo ci vogliono delle caratteristiche. Tutto va bene, bisogna vedere come si attuano questi principi. Va bene creare la cultura di tutto questo. Soprattutto regole chiare per tutti. Esatto. E noi dobbiamo lavorare su questo, perché vede, quando mi si dice, come è vero, in Belgio, in Olanda, anche in Francia, in Germania, sì, ma loro vengono da anni e anni e anni di culture diverse, e quindi naturalmente oggi, come devo dire, è normale, è tranquillo, tutto questo. Noi dobbiamo, partiamo, non dico da zero, da quasi, quindi dobbiamo creare tutto questo, cioè non, questo non significa che dobbiamo stare fermi perché non sarebbe logico, dobbiamo iniziare con gradualità e soprattutto lavorando sull'aspetto proprio della cultura e del rispetto per tutte le categorie degli utenti della strada. Dove c'è cultura e c'è rispetto, lei mi parlava di Belgio, Olanda, Francia, ecco lì gli incidenti comunque sono minori. Minori rispetto all'Italia, percentuale rispetto ai morti totali, i morti in città sono molto più bassi. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Ancora i vostri messaggi. Alan scrive: io sono un uomo delle forze dell'ordine e Landini racconta solo una cruda verità. E poi sulla pagina Facebook Giorgio dice: la retorica senza futuro, questo scontro CGL-PD, né loro né i loro temi che vorrebbero dimostrare di considerare fondamentali. Poi molti altri messaggi, però c'è anche un ascoltatore, Giancarlo, che dice: il PDL è il partito della Leopolda. Adesso dobbiamo parlare di calcio con Dario Ricci. Dario? Sì, sarebbe il caso, perché giornata importante, Roberta, certo. E soprattutto perché la Juventus è ancora bloccata sullo 0-0 a Marassi, malgrado il palo colpito dall'Urvente nel primo tempo. Siamo chiaramente intorno al quindicesimo, intorno al decimo della ripresa su tutti i campi. Ha pareggiato il Milan 1-1 a Cagliari, al gol di Barbo in apertura ha risposto Bonaventura con un tiro cross insidiosissimo che ha battuto Cragno. Roma in vantaggio sempre per 1-0 sul Cesena, decide finora l'Olimpico, sempre il gol in apertura di Mattia Destro. E Torino in vantaggio per 1-0 sul Parma con la rete di Darmian. 1-0 anche per la Fiorentina sull'Udinese, in questo caso la rete è di Babacar, mentre è bloccate sullo 0-0, oltre che Genoa-Juventus, anche il big match di San Siro, Inter-Sampdoria, Atalanta-Napoli e Palermo-Chievo. Grazie Dario Ricci, questa panoramica così esaustiva. Poi leggo ancora qualche messaggio prima di salutarci e poi ritrovarci. Andrea dice: c'era una volta il PD, forse non c'è mai stato, ora è evidente come sia un partito di destra, ma quale partito che difende i lavoratori e i pensionati? Una vergogna. E poi c'è Claudio che dice: Renzi minuscolo, dice che il governo deve decidere senza trattare con i sindacati, sarà così anche quando le corporazioni più forti si sentiranno minacciate. Ancora Elena ammette, dice: sono confusa, non capisco più nulla. Arturo: prendersi a quei poveracci per salvaguardare i ladri potenti, questo sarebbe il nuovo Renzi che avanza, è meglio dire che il fascismo che ritorna. E poi molti altri messaggi, ma direi sì che adesso dobbiamo salutarci, ci troviamo tra poco.